3, 2, 1. Puntata numero 5 dell'Incredulo! L'Incredulo che sono io, Giorgio il Popolano, e sono popolano proprio perché sono incredulo, cioè non mi faccio fregare da tutta sta roba, e i massoni, e gli alieni, e l'energia, e medita, e buddista. Andiamo! Quelli che sono i fatti, e stanno scritti sui fogli di medicina compilati da quelli che hanno lo stetoscopio messo come in televisione o nei film americani. Altro che storie. Comunque, siccome è facile essere fessi quando si è troppo rigidi, è preferibile aprirsi anche a altri tipi di esperienze, altri tipi di conoscenze, senza farsi imbrogliare, qui le Vanna Marchi non funzionano. Ma abbiamo con noi, per guidarci o per aprirci la mente a qualcosa di diverso, non imbonitori televisivi che con il malocchio pigliavano parecchi quattrini, ma qualcuno che effettivamente è più serio e più competente, almeno in questa materia, anche nelle altre mi auguro. E la nostra guida, la nostra esperta, la nostra anti-incredula è Elisa. Buongiorno Giorgio, buongiorno ascoltatori di Radio Big World e benvenuti in questa nuova puntata. Sai di che cosa parliamo oggi, Giorgio? Sentiamo, sono curioso. Conosci l'acqua? Ma sì, la bevo tutti i giorni, preferisco il vino, ma sai, quando c'è solo quella. Sai che l'acqua è qualcosa di magico e meraviglioso, non solo da bere? Ma va, è una sostanza, la usano per fare la Coca-Cola. Magari lo usassero solo per fare la Coca-Cola, forse non farebbe così male. Però diciamo che l'acqua, oltre a essere caratteristica del pianeta Terra e degli esseri viventi che fanno parte della Terra, perché almeno su questo mi darai ragione, che siamo fatti di quasi tutta acqua. Beh, ho letto da qualche parte che in buona sostanza noi siamo una borraccia di pelle piena di acqua e di sali minerali. Esatto, a seconda dell'età, a seconda degli organi c'è più o meno acqua. Però l'acqua è qualcosa di interessante sia a livello chimico che fisico. Proprio l'acqua ha delle sue anomalie all'interno, perché se tieni conto che è la prima a contrarsi prima di ghiacciare. Poco prima di diventare ghiaccio si contrae, e il ghiaccio è più leggero dell'acqua. Infatti, come vedi, quando c'è l'inverno il ghiaccio sta sopra i laghi, quindi ha un peso specifico molto minore rispetto al liquido. È una cosa abbastanza strana per una sostanza. Di solito la parte solida è molto più pesante rispetto alla parte liquida o gassosa. È una sostanza che sul nostro pianeta si trova in tutte e tre le sue caratteristiche, quindi, come vi dicevo, solido, liquido e anche gassoso. Ma ha qualcosa di molto molto molto strano anche a livello fisico, perché è un conduttore, quindi è in grado di portare campi elettromagnetici, energia all'interno del suo flusso. E non solo, molti animali usano l'acqua non solo per berla, ma per scaricare ormoni, quindi quando sono spaventati, quando sono preoccupati, entrare nell'acqua per loro è un abbassare il livello di stress. In pratica, essendo noi fatti di acqua e l'acqua essendo portatrice di energia, l'energia o le energie di cui si parla, di cui parlano gli hippie, sono veicolate dall'acqua nel nostro corpo. Anche, quello ci arriveremo a brevissimo, su come funzionano le medicine energetiche che sono, diciamo, usano l'acqua come solvente. Come vi dicevo, l'acqua per le sue caratteristiche, quando entra in contatto con un'altra sostanza, che sia i famosi fiori di Bach, che siano le sostanze omeopatiche diluite, forma dei cluster all'interno del quale loro conservano la memoria di questa sostanza. Infatti si parla anche di memoria dell'acqua. Ma va anche te, Elisa, con sta storia della memoria dell'acqua. Ma andiamo. Ma com'è che una sostanza liquida che si muove, che va dappertutto, che prende mille forme, mantenere una memoria di un qualcosa? La mantiene appunto per la sua caratteristica chimica e fisica, cioè quando entra è stato studiato, quindi non è una cosa di santoni. Si può proprio osservare scientificamente e anche con dei vari studi che quando entra in contatto con una sostanza forma appunto quello che vengono chiamati dei cluster, quindi dei contenuti all'interno del quale viene conservata l'essenza della sostanza con cui sono entrate in contatto, e tutte le altre molecole invece che non entrano in contatto con questa sostanza o che non servono in quel momento con quella sostanza fanno da assorbente, quindi continuano a fare quello che farebbe l'acqua normalmente. Quindi i rimedi omeopatici, come sai, sono, come tutti dicono, acqua diluita, oppure le tinture madri dei fiori non sono altro che memorie dell'acqua, quindi memorie della sostanza che è entrata in contatto con l'acqua e che l'acqua conserva all'interno di sé e che poi noi ingeriamo, e anche noi in questo modo entriamo in biorisonanza con questa sostanza. Quindi, come dicevi te prima, essendo fatti di acqua, entriamo in risonanza attraverso dei campi elettromagnetici e funzionando da l'acqua da conduttore, le sostanze che noi assumiamo, che contengono appunto la memoria dell'acqua, entrano in contatto con noi. Non so che t'ho intrippato. Figurati, ma pensate! E l'acqua, che ha questa caratteristica di ricordarsi, di memorizzare le sostanze con cui è venuta a contatto, ha la stessa caratteristica anche per sostanze più sottili, ossia la meditazione, il reiki, sono in grado di proiettare sull'acqua delle forme e l'acqua quindi cambiare essa stessa forma e mantenere la memoria anche di questo intervento sottile? L'acqua che viene praticamente entra in contatto con energie di qualsiasi tipo, quindi da reiki, quindi purificarla con il reiki, oppure mettere, non lo so, una bottiglia di vetro blu fuori con dentro dell'acqua e quindi farla entrare in contatto con i raggi del sole, solarizzarla al colore blu, che è il colore della guarigione. Ogni forma ha la sua energia e quindi sì, l'acqua si ricorda dell'energia con cui è entrata in contatto, quindi anche in questo caso si possono osservare che l'acqua forma dei cluster per la parte che è entrata in contatto con questa energia e si ricorda di aver avuto il beneficio o comunque di aver avuto la proprietà di entrare in contatto con questo tipo di energia diversa, diciamo, alla sua. Ho visto da qualche parte su YouTube qualche sciroccato lì degli alieni, della clonazione, che un santo X dell'inizio del cristianesimo era stato messo in prigione e gli davano solo pane secco e acqua, ma non acqua di fonte. L'acqua ci faceva la pipì dentro, ci sputavano, la pigliavano dalle latrine, e questo dopo 30 giorni esce dalla prigione fresco come una rosa perché in qualche modo era in grado di purificare quell'acqua. Questa storia, che comunque raccontata così è a leggenda o a barzelletta, quindi secondo te è credibile? Secondo me in qualche modo, se eleviamo la nostra energia a qualcosa di più alto rispetto a quello di cui era l'acqua, è possibile. Però ricordiamoci sempre che tanto è leggenda, tanto sono storie, e che anche non è detto che una persona sana che beva dell'acqua non pura possa sentirsi male, ecco. Questo sta tanto anche al corpo fisico. Sappiamo di popolazioni che comunque non hanno l'acqua come l'abbiamo noi, purificata, e comunque sì, bevono l'acqua e, diciamo, non stanno benissimo, però non stanno nemmeno male. Tipico esempio di noi occidentali che andiamo in Messico, beviamo l'acqua del rubinetto e ci viene un attacco di diarrea. Loro sono abituati a berlo, quindi dipende anche tanto dal nostro corpo e dalle nostre difese immunitarie. Però se vogliamo credere nella magia, può averla purificata, sicuramente sì. Un miliardario spagnolo anni fa era convintissimo del fatto che l'acqua di mare permettesse, in particolare in situazioni di naufragio, di sopravvivere bevendola, e di fatto organizzò un convegno alle Canarie e lui stette per una settimana attraccato su una zattera al molo a bere solo acqua di mare. Dopo questa settimana gli furono fatti degli esami e gli esami erano perfetti, come se avesse bevuto acqua della montagna. Successivamente altri hanno provato a rifare l'esperimento e nessuno di loro ci è riuscito, anzi, se non li recuperavano, quelli ci tiravano il calzino. Anche questo rientra nelle caratteristiche dell'acqua e nelle caratteristiche di ogni singolo corpo? Ma io credo che questo signore si sia abbia dato inizio a un nuovo Darwin Awards, insomma, le persone che tentano di fare cose impossibili e poi muoiono. Nel senso che l'acqua di mare, per quanto sia acqua e per quanto sia H2O, contiene dei sali che noi dobbiamo in qualche modo toglierci, e quindi sono sostine per noi, troppi sali. Quindi c'è chi riesce a sopravvivere perché, diciamo, ha avuto fortuna, e chi muore perché comunque sia il suo corpo non riesce a desossinarsi di tutti i sali minerali, che cominciano a provocare calcoli e poi vanno a intaccare gli organi, eccetera eccetera. Quindi, diciamo, ha avuto fortuna. Io non credo che questo c'entri tanto con la meraviglia delle memorie dell'acqua. Poi sai, nell'acqua di mare ora c'è plastica, petrolio e roba nucleare di Fukushima, quindi magari 100 anni fa era un'altra storia, anche se sto miliardario fece l'esperimento negli anni 2000, una cosa di questo tipo. E a proposito di porcherie nell'acqua, l'acqua che si beve alle fonti in montagna si sente che è un'acqua viva, energetica, e quasi fa l'effetto del caffè. Questo lo confermo, dato che l'ho provato di persona. Ma l'acqua che invece esce dai nostri rubinetti non solo è passata da 1000 tubature, sai te quante sono a norma, sai te quante sono integre, e in particolare viene aggiunta di un sacco di sostanze chimiche. Anche queste esperienze urbane lasciano una memoria nell'acqua, e che tipo di memoria lasciano? Assolutamente sì, entrano in contatto con queste sostanze, quindi sia solo dal semplice sapore, che può essere un pochino più diverso. È chiaro che l'acqua del rubinetto, per quanto sostengono le varie campagne che sia pulita e quindi sia bevibile, e anche con i vari fontanelli di acqua depurata, è un'acqua, diciamo, che anche solo per essere entrata in contatto con tanti depuratori, con tante sostanze chimiche, con tanti macchinari, è meno pura di quanto possa essere un'acqua di montagna, quindi ci può far meno bene. Ciò non toglie che magari noi, essendo abituati a berla, riusciamo comunque sia a tollerarla, però è chiaro, non ci fa benissimo. Però tante cose oggigiorno, lo sai, non ci fanno bene. Sicuramente non è l'acqua di 50 anni fa che potevano bere i nostri nonni o i nostri genitori. Il nostro corpo però piano piano si abitua, nel bene o nel male, anche questo fa parte della legge di Darwin, ci adattiamo al cambiamento del mondo e al cambiamento delle specie. Chiaro, se uno ha bisogno di bere dell'acqua per stare meglio, deve purtroppo andare su delle acque imbottigliate, quindi generare altro inquinamento, almeno che non le prenda in vetro, anche perché comunque sia anche l'acqua nella plastica, come sapete, la plastica entra in contatto con l'acqua, e quindi anche quella non è che faccia benissimo. Sono tutte cose che l'acqua ricorda, a cui l'acqua si attacca, quindi sì. Un'ultimissima curiosità sull'acqua. Sappiamo che le acque termali, per i minerali che ci hanno dentro, il ferro, il manganese, il sodio, che ne so, in qualche modo agiscono direttamente sul corpo, tanto che i dottori addirittura le prescrivono le cure termali a certi loro pazienti e gli prescrivono cure dell'acqua in particolari terme per la particolarità dell'acqua. Ma questo delle terme è solo la punta di un iceberg, perché per esempio prendiamo le acque più miracolose. Qui vicino a dove abito io c'è un'antica pieve dove si dice che la fonte da cui sgorga l'acqua, più o meno nella zona di questa pieve, permetteva alle donne e permetterebbe ancora oggi di avere latte nel momento dell'allattamento. Ma per esempio in centrissimo a Firenze, in una di quelle piazzette vicino a Ponte Vecchio, c'è la casa del priore dove sotto c'è un'acqua che si dice faccia bene alla gola e alla voce. E mi spingerei poi alle acque più famose, tipo l'acqua di Lourdes, che non è quella con l'LSD dentro, proprio l'acqua del posto, che pare che a berla faccia miracoli. Questo tipo di credenze sono credenze medievali oscurantiste o hanno un qualche tipo di fondamento? Allora, studi scientifici sono stati fatti appunto proprio sull'acqua, l'acqua di Lourdes, l'acqua di Medjugorje, di altre varie, diciamo, luoghi sacri alla religione cattolica, e hanno riscontrato che l'acqua di questi posti, entrando in contatto anche con persone malate, no? Quindi con persone che hanno all'interno suo loro virus, batteri, o comunque sia, pensate a tutte le persone che tutti i giorni fanno il bagno nell'acqua di Lourdes e sono persone che non stanno bene né fisicamente né mentalmente, cioè una persona normale potrebbe morirci. Invece queste acque riescono in qualche modo, per la loro tipicità, forza, a annientare tutti questi batteri. Quindi mettiamo che ci fanno un bagno 100 persone, dopo viene estratta l'acqua e l'acqua è pulita come se fosse appena sgorgata dalla montagna. Quindi sono acque che all'interno hanno una loro forza tale che non solo fanno bene, ma si auto guariscono e quindi continuano a avere un'energia elevata superiore. Ogni acqua ha le sue proprietà, quindi l'acqua di Lourdes serve a qualcosa, quella di Medjugorje serve a qualche cos'altro. Non sono direttamente stati fatti studi scientifici su che cosa facciano, tranne che le acque termali per le loro caratteristiche di sostanze sono all'interno, quello sì. Però queste acque sante, acque sacre, acque mariane, come vengono chiamate, sappiamo solo che al loro interno riescono a uscirne pulite e più elevate dopo che si è immerso o che è stato una persona con delle malattie. Quindi hanno la loro caratteristica molto forte. È proprio il caso di gridare miracolo. L'acqua ha una quantità di proprietà incredibili e solo poche di queste probabilmente sono state studiate dai camici bianchi, o comunque prese sul serio, o comunque pubblicate o divulgate, perché quelli tante notizie se le tengono per sé. E allora ringraziamo Elisa per averci guidato in questo bagno termale nelle proprietà dell'acqua. Grazie Elisa. Grazie Giorgio e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World, e alla prossima puntata.